puoi dondolare. Se vuoi ascoltare e pensare e ballare e immaginare e poi ancora sognare, stai con noi. Il cammino di Gigi D'Agostino. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Un po' sta musica. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Che è difficile, ma non per l'amore. Un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Gigi D'Agostino. Canzone buona. Buona, buona, buona. Dalla dance più conosciuta alla nuova sonorità mai vissuta. Dalla melodia più raffinata alla martellata più incazzata. Per creare ci deve essere una grande forza dinamica. E quale forza è più potente dell'amore? Igor Stravinsky, Inky. Gigi D'Agostino. Un modo nuovo per entrare nel mondo dei balocchi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno alle 18. M2O. Maria del folclorista,

259. Nel mondo che non c'è. Non so mai cosa rispondere a chi mi chiede che musica suono. Suono tutte quelle vibrazioni che mi danno vibrazioni. Suono tutto quello che mi fa muovere. Suono tutto quello che mi fa venire i brividi. Suono tutto quello che mi fa pensare. Suono tutto quello che mi fa riflettere. Suono. Gigi D'Agostino. Cammino di Gigi D'Agostino, una fragranza per l'ambiente. Le catene dell'abitudine sono troppo leggere per essere avvertite, finché diventano troppo pesanti per poter essere spezzate. Samuel Johnson. il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Significhi stare bene. Io sto come desidero. Sto dedicando ogni giorno alla musica. E lei dedica ogni giorno a me. Gigi D'Agostino. Passo lento ma violento. Gigi D'Agostino è lento, violento. La più eccitante attrazione è esercitata da due opposti che non si incontreranno mai. Andy Warhol.

Gigi D'Agostino vi abbraccia forte. Ci sentiamo domani. Grazie.